fiore api. Io lei, mami, papi. Taki taki, sushi, wasabi, abi. Voglio più applausi, batti le mani, mani. Prima classe, destinazione Abu Dhabi. Giovani e pazzi, pieni d'oro come i pirati. Tanti pacchi, guardie con i cani, cani. Non parlarmi, tanti soldi, tanti cazzi. Sto per scoppiare, saltare in aria, kamikaze. Ok, troppe dipe, troppi cazzi. Io e lei, destinazione Abu Dhabi. Emirati, mangio carne come cani. Fumo miele, giro un blunt, sembra un origami. Piccola peste, baby, so che mi ami. Sudamericana, muove il culo, balla il taki taki. La metto a terra come un cazzo di tatami. Erba e tacos come i fottuti messicani. Fiore api, io lei, mami, papi. Taki taki, sushi, wasabi, abi. Voglio più applausi, batti le mani, mani. Prima classe, destinazione Abu Dhabi. Giovani e pazzi, pieni d'oro come i pirati. Tanti pacchi, guardie con i cani, cani. Non parlarmi, tanti soldi, tanti cazzi. Sto per scoppiare, saltare in aria, kamikaze. Bitch, non sei la mia mami, io lancio i soldi e tu balli. Mille cavalli in strada come un fottuto Bugatti. Verità dalle mie labbra sulle gengive, diamanti. Amo i soldi, loro amano me, stiamo per sposarci. Li metto incinta, partoriranno salvata night. Dark boy, testa di cazzo, sempre in cerca di guai. Brava a scopare, tu brava a scopiazzare. Bau bau, lascio un osso a ste tre puttane. Fiore api, io lei, mami, papi. Taki taki, sushi, wasabi, abi. Voglio più applausi, batti le mani, mani. Prima classe, destinazione Abu Dhabi. Giovani e pazzi, pieni d'oro come i pirati. Tanti pacchi, guardie con i cani, cani. Non parlarmi, tanti soldi, tanti cazzi. Sto per scoppiare, saltare in aria, kamikaze. Abu Dhabi, nuova Audi. Baby balla, danza del ventre, o taki taki. Il suo culo esplode, tipo Nagasaki. Sembra Rihanna, ma la chiamo Tati Tati. Troppi tipo attorno, mi sento Billie Eilish. Tokyo Drift, 200 ninja Kawasaki. Tipo giapponese, mi fa vedere i draghi. Trap shit, lo sai che siamo i capi capi. Fiore api, io lei, mami, papi. Taki taki, sushi, wasabi, abi. Voglio più applausi, batti le mani, mani. Prima classe, destinazione Abu Dhabi.